occhi bassi sul suo passo, di giorno in giorno lui consuma la sua vita. Di notte si ferma fumando qualcosa sulla porta del bar, in piazza del mercato pochi sono come lui. Ma ieri per caso ha detto che è stanco di questa gente triste dal suo denaro. Guardare